scappava. Che facendo c'è? Cazzo sono? Subito c'è. Che facendo? Subito so. Che facendo facendo c'è? Ehi. E beh, Dio Mario, c'è nessuno. Tutti a passeggio sono, tutti a passeggio. Secondo me tutti dormiti. E a quest'ora non credo, A quest'ora non credo, perché la serata è bella, se ne fanno in giro. Vabbè, riposino pomeridiano. Fino a quest'ora non chiedo sonno. Sono già le 6 meno 20. Che sono già in giro loro. E io già esco dopo, là. Cosa ci fai, casa? Bisogna andare. Bisogna andare a girare, a passeggiare, che almeno fai un po' di movimento, sei tranquillo, dai. Cosa hai fatto stamattina? Sono a banchiere. Anche quelli bisogna fare. Io me l'ho fatto la settimana scorsa. Così che quasi a zero, almeno sono più leggero. Già ne ho poco, ma me ne faccio con quei poco che ci sono, me ne faccio corti. A zero no, proprio a zero no, non mi è mai piaciuto. Però così va bene, va. Va bene, lo so. È bello. Non l'ho sentito ancora. E ogni volta che faccio lo vedo il terrazzo. Deve essere sempre un leggende, gatto. Inventore, gatto. Se lo fa peggio. E adesso siamo entrati un paio di giorni, gliene faccio fare, almeno facciamo un po' di pulizia prima di bruciare, capito? Almeno taglio quello che c'è da tagliare e dopo pronta per bruciare, quando si decidono di che si può bruciare. No, non mi piace, è troppo sporco, troppo alta la roba, non mi piace. Meglio se basta, almeno puoi prendere da terra. Vabbè, e i capi lo sanno. I capi? Quale? Adesso i capi lo sanno. Cosa volevano dire? Sempre le stesse cose. No, ma ti voglio a me. Poche niente, ma sono tutti scesi, sono tutti scesi, ne ha messo poco, cosa, ne avevo fatto una cassettina in tutto, non ce n'è più? Quei pochi che non ne sono scesi, allora, strano proprio quest'anno. Già che ne ha messo poco e poco adesso ne sono scesi, capito? Cazzo, ogni anno verrà in fascia dura. Quest'anno invece si è attaccato a questa malattia e ne sono scesi tutto quanto. Come ho cominciato a diventare gialli, ne scendevano, capito? Si vede che è un'altra brutta per quello frutto, capito, quest'anno. Speriamo all'anno venturo che ripulita un po' l'albero, per cui vediamo un po' là. Questo sto dicendo, l'anno scorso, ma tutti gli anni, quest'anno che non esce poco, mi sono proprio strano, ma tutti gli anni caricavo mica già la vistirucca, già ogni tanto già lo vaziava là, a pochettino, per cui se ne va a buzzeffa. E non so quanto ne ho dato, non è vero, a cassetti. Però quest'anno non c'era quei pochi che c'erano. Sulla cassetta l'avevo fatto, non di più. 4, tutto è poi tutto 4, capito? È sotto proprio dove c'è attaccato, e come lo prendevi, ne scendeva, c'era il verme, proprio sul tenaglio. Devo dire che quest'anno è andata brutta per quel frutto. Adesso vediamo un po' l'anno 21. No, mi assento, dai. Sentiamo magari più tardi se coincido, ok? Sì, vai, vai, Gio Maria, più tardi, non c'è un po' di più tardi. Ciao. Ok, ciao. Ebbetto! Ello! Buonasera! E allora, non sei uscito? No, io sono andato a prendere mia nipote dall'asilo, l'ho portata a casa sua e sono rientrata a casa. E mi era bello il mio televisore. E aveva... visto che entra di notte. No, è macchioso, uscito. No, mi c'è Antonello Pocanzi, il PMR. Sono stato un poco e dopo ho chiuso. Ehi. Oh, Giulia. Ma cosa non vedi? Ehi, c'ha Pugliedira. Però sentivo tutto a tratti. A un certo punto era tutto QRMato, QRM a Nastro. Tu, allora Antonio, dai, non ti sento bene, oh vabbè che io ero gommino ero, lui deve sapere che era in giro, era, perché quando è a casa sua lo prendiamo bene, che è in giro, secondo i colleghi non si intende più. Boh, non l'ho chiesto dove era, capito? Per cui, anzi, mi ha chiesto quando è che era, se era domani o dopodomani la questione. Penso che sia domenica, perché la processione è domenica. Ho detto comunque, per essere tranquillo, stasera accendi e già lo trovi dalle 7:30 alle 8. Sì che mettete d'accordo, oppure fai una telefonata e sai a che ora andare, eccetera, capito? Tata, la verità di tubacchigio, deve darsi mezzo ribambito che sono vicino. E a chi non sai? Però abito, domenica alle 4 meno un quarto devi essere alla chiesa del latte dolce. Evidentemente, con tanti versamenti in capo, ha soffolato e si fa sentire stasera là. Certo, bambù, si perde risentimento il cuscinetto. Io pensavo di sapere. Oh, ma so bello io sapevo, ma non sapevo che era così. Certo, bambù. Aiuto, bisogna metà per una manica manzano. Ma io ve l'ho detto, ma dovrebbe essere altro domenica, perché il solito lo fanno sempre la domenica. La domenica sera. Per cui era così. Non sapevo cosa rispondere, però c'è senz'altro la domenica, capito? Ve la giù il muro. Domenica, a parte alle 5 parte, però bisogna essere lì prima delle 4. È chiaro. Ma io si farà sentire, dai, perché poi ve l'ha detto pure io che domenica, sicché magari l'orario usa no, è cazzo, oppure gli si fa sentire, dai. Ehi, Bacchisio, ancora in campagna. Ah, penso che se ne sia già a cena, che cominciano a far bugio, penso che stia salendo presto. Ehi, adesso alle 6:30 comincia a imbrunire, dai. Infatti, fino a questo mese mi fui. Dal primo del mese sta alle 5 e mezza già buggio. Ma voi mi state buggio, ogni passo è buggio. Infatti, ma chissà come ti sarà. Ma, hai visto che un ragazzo che ha fatto un temporale a Bassa di Cagliari? Specialmente nella base di Capoterra, che ne ha lampato due garriri. Anzi, una garrera è tagliata in tre pezzi. Cazzo, lo baciava due anni fa o tre anni fa era. Che c'era un allagamento, non ha fatto un poco di danno. Ah, ma è tornato, cazzo, a Capoterra. Ne vedremo di peggio, ne vedremo se continua così il suo tempo. Il riscaldamento è tutto quanto. Questa è sempre colpa dell'uomo, che pensano a guadagnare, però non pensano a cosa succedendo. Fate questo. Vogliamo lavoro. Cazzo, comincia a attaccare i frappichi non ci andava bene, fa un bel danni, ma i frappichi sono tutti fuori legge, li stanno chiudendo, così che gli dà ragione, non se ne capisce più niente, purtroppo è così, può morire i droni, le cose bisogna anche farle bene. Il tempo giusto, invece ci sono i fiumi, non li puliscono mai, ci sono le conette, non le puliscono, fabbricano dove non devono fabbricare, fanno i ponti di carta, eccetera, eccetera, capito? È tutto un giro. E purtroppo sì, le male fabbriche si sa che erano inquinatrici. E per essere in legge devono impindire un montone di denaro, devono impindire, quindi i soldi dicono che non ce ne sono per metterli a posto tutto quanto. Allora Cesare è un bel travagliato e a casa. Purtroppo è così, e più stiamo andando e più stiamo diventando, per carità, perché i soldi cazzo se li mangiano, c'è molta gente che vogliono troppo, non basta quelli che si mangiano, ne vogliono ancora mangiare quelli degli altri, e allora anche quelli certi lavori non si possono fare perché i soldi se li mangiano loro. Chiaro grido, è così, ma è chi inquina di più di tutti è la Cina che inquina di tutto, ecco cosa è. Qui sono rientrati del coso per le fabbriche che vanno inquinamenti, troppo raglienti e tutto. Ma non so quando, anche in Cina queste cose succedono, in Giappone, dappertutto queste cose succedono. Il mondo è tutto diverso da prima, capito? Stanno facendo troppe cose per cui non li fanno a cose giuste, e allora più questi riscaldamenti da questi marasiosi che avremo, cosa abbiamo fatto? Tante cose ci sono in mezzo, per cui stiamo andando peggiorando, c'è poco da fare. Sì, purtroppo non si può fare più nulla delle cose, non si può a pulire l'aria e tutto quanto, non essere più inquinata per abbassare il buco dell'ozono, sta sempre mangiando a che da maniera. A far di là e basta, a fare di là le società vogliono fare soldi, però pensano che domani siamo male noi stessi, capito? Non pensano a domani, così che purtroppo è così, per carità. E poi almeno le conette, i possessi eccetera, non li puliscono, non ne puliscono, no. Magari quando succede la cosa pensano di farle queste cose, le pulizie, capito? Si può immaginare che ci bossetti di strade, non li pulire mai. e sono tutti altri via di me in casa. E voi si che se fai questa sala a chi non scorre l'acqua. Non sai che da maniera ci vogliono un sacco di soldi e invece di mettere a pulire il Siava e canali e tutto quanto e tutto invece no pensano a un bisordinaghi da che dacero però è sempre colpa nostra. È sempre colpa nostra, capito? Per cui, ma lo sa quante case ci sono abusive che le fanno proprio di quella maniera, magari sono risanate, però non sono fatte in regola d'arte e quando piove succede tra le frane, il terreno che è franoso e l'acqua quando scorre si porta via tutto quello che c'è e per cui tappa tutto e ecco si allaga, capi, si allaga, però io mi sono meravigliato come in tira, capi, il sirugo, hai visto? Si è appoggiato il Rubonte, si è appoggiato. No, Rubonte l'ha lasciato, al capoterra Rubonte l'ha lasciato, è franato dopo il ponte, che ha portato via la terra, ha portato via da vicino, ecco cosa è. Sono piani di guraderre tutto quanto, stiamo mettendo tutto attorno per coprire e fare l'asfalto. Fredda vivo, non vivo terra, fredda, prima di fare cose di monte, io fredda vivo, fredda e cemento, a fare basamento mentre si devi, cazzo, no, a fare un basamento solo per mantenere il ponte, però dopo il ponte è tutto terra lì, quando magna che si magna leva, e da voi si bocca tutto. Ah, infatti, è attaccato a un monte che si sta portando la terra. Allora sono pianendi e tutto a coso, sono pianendi, a buccia un po' di materiale, di quello del cantone e tutto quanto, e poi sopra ci stanno mettendo briciolato e tutto materiale che non frana. Già ho visto i mezzi scaricando e andando e tornando, è un macello e poi lì è tutto campo, l'acqua cazzo, se non è pulito non scorre, capito? È tutta pianura lì, per cui cazzo, cazzo si scendeva da Lugavale, cazzo, la campagna a terra e si butta la terra e per forza beh che succedono queste cose e to, mamma mia ragazzi, per carità, e va che hanno dato anche, l'hanno fatto vedere anche in America, hai visto in America il boom galleggiato, ma in America che è passato un tornado e in Chile è sempre così. Lì ogni anno c'è sempre il terrore, ma quello lì succede sempre, il riscaldamento che c'ha lì è sempre così, non cambia nulla lì, fino a che non faranno pulizia nello zoo, sarà sempre così lì. E allora, queste fabbriche, se ne sono filtrati questi sfumo che esce fuori, gatta, dovrebbe essere filtrati anche, gatta, sennò è un macello. Bisogna trovare un sistema di fuori uscire pulire, la roba del genere, siamo sempre alle solite cose. Gatta. Bisogna inventare qualcosa che sennò siamo sempre matessi, capito? È inutile, forse era una fabbrica, caspita, magari sono 2.000 operai e da voi che inquina già tutto il mondo. Boh. Infatti le fabbriche dovrebbero togliere soltanto roba pulita, vapore e basta, deve togliere solo vapore e boh, no fumo inquinante, vapore deve togliere e basta. E allora, era anche le macchine, meno male adesso scende le macchine elettriche adesso, davvero, questi cali, tutti le macchine elettriche adesso scende, per cui l'udire se fa troppo fumo, fa troppo inquinamento, per cui mi pare che la Luca Giulio mi pare che comincia a pedi colpi. Infatti dice già cominciando a cavazzini, a piano a piano vedrai che il dice non esisterà più. Ma non solo le macchine, camion, pulma e antubinè e tutte queste cose devono sparire. Beh, io prima o poi sto cercando di fare qualche cosa di buono, adesso si vede che fine faranno queste macchine elettriche che non inquinano. Ma ci sono già in circolazione le macchine elettriche. Sono già in circolazione. A me sono meglio che di metà benzina e metà a elettrica. Anche il gas c'è. C'è anche il gas miscelato. Oppure a gas elettrica, che forse è meglio, è più pulita così. O tutta elettrica, però tutta elettrica costa un montone di denaro, se va a tenere a prezzo buono, tanto quanto si può comprare. Prezzo buono, che costino molto queste macchine. Ci sono macchine magari di un bel costoso, ci sono macchinette come può essere le macchinette piccole qua, capito? Sì, quelle sì, no? Già ci sono, sì. Stanno cominciando già a uscire in giro le macchine elettriche e ce ne sono parecchie già, solo che invece di durare le batterie di durare pochi anni. Ma io penso che siano le stesse cose come la benzina, capito? Magari ci avranno il pezzo del ricambio, è chiaro che una macchina non può durare un'eternità, è chiaro che il consumo ci sono lo stesso i consumi, capito? Per cui però si sta sviluppando parecchio, dappertutto. Sto cercando di fare le cose più pulite e si vedrà. Anche in Italia ce ne sono parecchie, cazzo, ma l'hanno fatto vedere, anche io gli hanno fatto vedere. C'era un retellino, non so quante migliaia di macchine erano, tutte destre che erano. Infatti, vedrate che a mano sto dando gli incentivi per cambiarle. Le cose varianti, sempre una macchina pulita e tutto quanto, solo che devi incentivarli. Ma che per meglio le persone, ragazzi, in bicicletta io ho a piedi, con le maschere, anche in altri Italia, amica, con la mascherina, gatto, perché stanno respirando troppo purigini, e ti ammazza prima dell'ultimo. Infatti, ma in chi viene tutto è qualcosa che non tira sei vento da che si baci, ecco cosa è, per forza c'è inquinamento. Torino, Milano e altre città, per forza è tutto a inquinamento, che non tira vento in chivi. E poi sono tutte quelle a gasolio, è il gasolio che fa molto fracasso, la benzina magari è diversa, però il gasolio inquina troppo, per cui adesso la benzina e il gasolio cambiano anche il nome, che cambiano, l'hai sentito? Nelle pompe del nuovo decreto è quello che hanno messo l'Unione Europea, nuovo decreto che deve essere segnato adesso ce lo troviamo nei distributori e mano a mano chiedono cosa bisogna fare. Noi studiamo, saremo a quello che cosa fa, perché è tutto un mondo inquinato, grazie. storia. Per fortuna queste grosse fabbriche, tutte queste cose. Ma anche il mare è stato inquinato, hai visto? Anche il mare è inquinato, anda a mangiare un bicchio a fianco di alfa, cioè di gasolio, come si chiama? Petrolio, si può immaginare. Cosa vorremmo fare? Il fatto è che se il gasolio e il petrolio non lo raffinano bene, proprio bene, come deve essere raffinato, per inquinare molto di meno, è quello che deve essere raffinato parecchio. E mettere sempre più filtri dentro per avere meno inquinamento. Filtri ci vogliono. Quella che ho io va sei filtri, va a canduisce e fumano nei vasi. Ma inventeranno qualche cosa, perché il petrolio è stato sempre esistito e esisterà sempre, capito? Però se non capiamo qualche cosa a migliorare, a non inquinare, siamo sempre la stessa, capito? Sì, a mano vedrai. Abbassi a cenere un petrolio, vedrai che ha cominciato a baciare da bui. Vedremo. Fra averci davanti cosa succede. No, guarda, se cominciano a uscire le macchine elettriche e tutto quanto, pagheremo soltanto di fermarci a caricare la batteria. Da bui magari. Poi gira con la macchina elettrica che inquina dopo tanti anni, chissà cosa cominciare a pulire, cosa fate, le batterie eccetera, e dopo inquina già pulisce. Ma le batterie già si possono rigenerare, e noi quando dovremmo cambiare le batterie delle macchine andiamo nei posti dove le cambiano e loro le portano a rigenerarle. Le fanno rigenerare, torna. Ma perché si possono rigenerare? A cappe piombo come fa a rigenerare l'otto? Se sono allora sfasciano la calcata, fanno qualche cosa al piombo che c'è. Infatti, no, ma c'è una possibilità che si possano tornare a rigenerare. E io le avevo viste l'altra volta, ho fatto vedere sul televisore. Batterie che le riprendono, li cambiano dei pezzi dentro e le tornavano a rigenerare. Sono il negativo e il positivo che va cambiato. Una volta avevo, quando avevo la 500 giardinetta, la familiare, no? Quella lunga scappottata, allora avevo quella macchina, la 500 giardinetta. E uno mi ha detto, e c'è quella batteria un po' malandata, si piglia con peggio di un litro di acido, capita, e la svolge tutta quella roba che c'è, e per cui dice, gli rimetti i gufi, la lasci, dice, un giorno, dopo di domani l'attacca, e vedrai, dice che la batteria è come nuova. E già è vero, già. Sì, ma da voi non hanno le servizie più, la devo comprare per forza. Ti dura un anno e invece quando noi portiamo le batterie che le ritirano e tutto quanto, loro le riportano in fabbrica e cambiano il positivo e il negativo e sono tornate rigenerate. Ecco cosa succede. Ma le batterie, per il gioco con batterie lampade in terra, ma le campagne, i ritrati, e non le ritirare non manco. E vedi, quello è una cosa che tutti compriamo le batterie noi, invece no, le batterie dobbiamo portare in un posto dove le dovrebbero ritirare, ecco cosa è. E quando si mettono nei cassonetti, io passavo con i furgoni a ritirarli, e poi le ritirava Marcello le portava alla fabbrica dove le facevano tornare a rigenerare, ecco cosa è. Invece non si dovrebbero lasciare buttate quelle cose lì. Chissà, insomma, inquina la cosa, inquina l'altra, insomma, tutti inquineggiati. Non è più come prima, no. Allora, il progresso sta andando, migliorando una cosa ma peggiorando l'altra. La salute sta peggiorando però. Oh, già stanno inventando altre cose, per cui anche la medicina è avanzata, non come 50 anni fa che morivano come niente, mentre adesso, invece 50 anni fa, stato come adesso, sarebbero esistiti ancora vari anni. Purtroppo sono sempre andati avanti con la medicina, stanno andando. Speriamo che anche con il diabete stanno facendo delle pillole che ti tiene il coso costante per non prendere molte pillole, con una pillola rimani sempre in coso. Speriamo che continui ad andare avanti così. Anche quella medicina ancora bisogna cavare la sura di tutto, ma farla risanare completamente la glicemia, e purtroppo invece è tutto dalle cose che mangiamo, perché oggi non c'è più roba genuina, oggi qualsiasi cosa che mangi è tutto, no, ci sono ingredienti, sembra così, ma fanno un bel male, fanno. Dice che sono buoni, sì, però non è cose originale, per cui sono sempre cose artificiali, e così che la salute, e magari toglieranno qualche medicina magari per andare avanti, però anche quelli fanno male. Infatti, anche quelli fanno male, dove va? Dureremmo di più grugoso con la roba surgelata. Anzi, tutto morirà proprio le droghe. Anzi, se è rientrato il signor Battisio. Attenzione, signor Battisio. Ha detto che no. Sai, per voi c'è purifica a posto. Quando devi schiacciare il pulsante, fai l'accensione e poi cambi, quando sta lampeggiando cambi con il pomello dei canali. Chiaramente era il tubo a me, dice Marco, quella che io lo riuscia, invece dopo già ci sono riuscito, perché me l'hai detto tu. Adesso almeno ce l'ha tranquillo. Comunque quell'altro apparecchio sta funzionando bene adesso. Ma il fatto che Antonello l'ha portato un microfono che non era Giulio, ecco cosa è. Se doveva vadare un microfono originale, se doveva vadare, no, un microfono adattato. Ma questo è l'apparato, da chi l'ha preso? L'avrà preso nuovo o no? Sì, questo che sono andato io stamattina l'ha preso nuovo. Però quando gli ho lasciato l'apparato a Antonello, l'ha ciambato un microfono, l'ha ciambato, ecco cosa è. Ma l'apparecchio era di Bacchicio, ha chiamato il microfono e basta. Ma che microfono vuole Antonello? Antonello è di ciamba carattere, ciambato un microfono e ha preso un altro microfono che non serve. No, vado a fare come che faceva un altro tecnico che girano, che mi capava di mettere da me e muore all'apparecchio a lui. Poi assicuro di sì, se così. Ma lo sai che anzi già fu già fatto un vino a casa, certo. Già te la metti il vino, certo. E faceva pochi in trafugli, che se la di vera io, che fa poco un buon risotto, che sta a pugna e fa del bene, cazzo. Ma cavato di bene, l'apparecchio se la buttava anche qui solo, cazzo. E l'apparecchio se lo funzionava più. Io me l'ammetto di questo, sì. Ma come non ne ho mai arreggato? Me l'ammetto di questo, che faccio mai a... Se non c'era neve madre, l'abbiamo fatto pure. Io, lo primo apparecchio da base che ha girato, me l'ha pigliato questo. vino, cattivo, guardato, ma dice fila di chi te della zomerca, cazzo che tu un mobile in legno, cazzo, aveva 30 fatti sapere, fila di questo, e non mi ha messo cazzo che l'abbia dato, ma fila, dice costa tanto, faccio la prima e pausi da birro, cazzo un mese, due mesi, e l'apparecchio non arriva mai, una divisa un cazzaggio, e qui arriva l'apparecchio, durante questa settimana, voglio i soldi io, Cazzo, adesso l'ha fatto, invece da me, lui, non so, perché mi ha dato un po' di questi tre canali, cazzo, e dice quelli che non lo fanno più, così che mi hanno dato questo, e ti ricevi quello, e mi ha fottito Burichini. Cazzo, già tanto le denà, poi forza, già pigliato le denà, si ha pigliato, già tanto ne era poco gonfio. E a me una di mi ha detto, lasciami una cosa, cosa ti lascio? Vai, vai, siamo truffatori, sì, non ti lascio proprio nulla, me ne sono andato. Truffatori, era truffatore. Se le cose, magari se voleva le faceva anche bene, però non ha fatto mai bene. A chi era sempre ubriaco. Sì, ma non le è bastata la giusta che l'hanno cuttuto, no, non le è bastata pa fare le cose. Ah, ma va, è morto, Dice che è morto. Dice che è morto. Così mi ha detto Gianni Capri 2, io non lo sapevo nemmeno. Sai, io il giornale non l'ho preso, per cui magari sa morto, è morto, però non ne leggo il giornale. L'ho saputo da Gianni Capri 2, che era morto. Infatti dice che doveva andare a prendersi quella roba che ti fa via Edu. Questa cosa gli fai questa roba? Tutta roba è sequestrata mia. Cazzo, no, si nati, no. Ehi, sta roba vincia da bui. Nah. Forse faccio l'anima sua, va. Ah, sono tutto il racco, intendi, tutto canto. Nell'altro mondo alcun senno apparecchi. Allora, per carità, ma voi per avanti il muro, ma che broglione, cazzo. Cazzo, la voce, avevo un apparecchio, avevo fatto coso, come si chiama il fotografo, quello che di fronte a Pasquale, io non mi ricordo il nome, cazzo. Avevo fatto un cambio, avevo dato un proiettore sonoro del Super 8 e lui mi aveva dato questo apparecchio, Sommerca era, però era ritardato in ricezione, capito? Quando me l'aveva portato da voi 5 minuti veniva la ricezione e l'ho portato a Mario M2, non so se ti ricordi, quell'altro, allora era alle Mamiglie, al lago Viale Trento, cazzo, era attento 6 mesi, ma pure due mesi non mi ha fatto nulla, cazzo, il altro burro mi ha fottito, ma poi un altro burro mi ha fottito, cazzo, mi ha fatto mai 10 euro, ma non faccio nome, non lo faccio il nome perché no, non è anche giusto, però cazzo mi ha dato fastidio anche quello, un altro burro, barca miseria, cibi puro era chissà che un burro, ma fanno fare niente, cazzo, ma voluto 10.000, e 10.000 franchi era. Giammai, se truffatore veniranno un bel, sono buon di bigliavo lì, non scuttiare un muro. tutti gli anni bravi gli anni, e non si viene a nulla, ma chissà che non sarà più così. Uno ce n'è a Sedico Bravo, coso, quello cagliaritano, che era in via Galilei, certo, quello era molto bravo e faceva le cose anche ben fatte anche, perché l'ho dato la linea Sommer che me l'ha fatto come nuovo, me l'ha fatto e si faceva pagare, però era molto bravo quello lì e non le faceva cazzate come facevano questi qua. Infatti, quello lì era molto bravo, sì, quando portavi l'apparecchio devo fare a nuovo, devo fare a dovrà come te nuovo, ma aveva anche tutto quanto quello, c'aveva per metterla a posto? Aveva tutta l'attrezzatura, allora aveva tutta l'attrezzatura, per cui faceva delle cose ben fatte, ecco. Dopo si è trasferito a Cagliari, è stato poi morto pure anche quello, un peccato, lavorava bene qua. Chissà perché se ne avevo voluto andare a Cagliari, forse a chi sappia che doveva morire. Adesso il tecnico, chi c'è il tecnico bravo qua, proprio mi sembra che non ce n'è nemmeno uno, c'era quello di Chiaramonti che era bravo anche lui, ma quello dice che non lavora più ormai perché è anziano, e per cui anche quello è scomparso dalla 27. Pare che ce ne sono, Giovanni, che sono scomparsi. Ce ne sono parecchi vecchi che sono scomparsi ormai, non entra più nessuno in ordine, solo noi siamo rimasti, in pochi. Basta avere roba e si raccampa. Uno nuovo e si è tranquillo, la roba vecchia ormai ha fatto la guerra e allora bisogna mandare in pensione anche a loro e si è tranquillo, capito? Grazie. A riparare non conviene, magari quando l'ho preso la bici se lo lampi, ma che dico che abbia contato che ha comprato l'uovo. Faccio che fa così, pigliano a pazziro e boh, e pigliano un altro uovo. Ma oh yeah, per carità, mio Dio, così è. Vediamo un po', signor Marchisio, ci sei? Ha detto che no ancora. Faccio pure che sia ponente la macchina nello garage. E a se fa sentire, va. A me si fa sentire l'apparecchietto stasera. E poi, già lo sappiamo, poi vanno bene, anche se ha il microfono originale, va bene quell'apparecchio, va benissimo. Sì, infatti va benissimo, sì. Oh, io ce l'ho messo a parte, accatastato, tra di buccio, che sto usando questi qua, il presidente Giri, è quel rematto, però già esce bene. Ogni andante lo accendo, il 40 canali, ogni andante lo accendo, lo posso funzionare. E questo c'ha 40, è la M40, c'ha 80 canali, questo qua c'ha 80 canali, presidente Birre. 40 in AM e 40 in FM, capito? Va bene anche questo, cazzo, è un gioiello. Infatti, 40 in AM e 40 in FM, ed è così. Allora, cazzo, i colini non sono ingombranti, anche se non c'ha le bande, che se ne frega le bande, no, già ce l'ho quello delle bande, però ormai un attimo, non è più vicino manco in banda, si può immaginare, basta in AM, già siamo in pochi, non che. Infatti, siamo in pochi, cosa entrare in coso, ma fa cosa, beh. Siamo vicini, a voglia, a sentirci. E ho che so un attimino che di luce mi sono friggendo, ma me mi la vado la faccio un attimino. Va già lì che girelli. Attenzione, signor Bacchisio. Lo sei Zanica, che al momento passa qualche cosa. Cos'è Gianmarie? Attenzione, signor Bacchisio! Chi è? Signor Tore. Bello, signor Bacchini. Buonasera. Non c'è anche a lei. Quale stai usando? Quello là, nuovo? Sì, adesso sì. Perché voglio qualcosa sotto per liberare la sua parola. Ehi, sei proprio... adesso sì, chiaro chiaro. La modulazione è meglio di, più chiara di quella là, Meglio questa qua, Questa è chiara chiara proprio, si sente che sei tu parlando. Chiara non c'è a casa sua. Ah? Chiara è a casa sua, non c'è qua. Lo so. C'era Gian Maria, se adesso, si è assentato. Gian Maria si è assentato. Quattro e mezzo. Quattro e mezzo, è quello lì il suo valore. Aspetta che provo l'altro a vedere che se c'è differenza. Guarda il segnale adesso con questo e questo con l'altro. Come va questo qua? Questo è a fondo scala, invece quello là no. Quello là è 4,20. Questo va a fondo scala. Sì, questo va a fondo scala. Sì, è più potente. Allora questo è un 5 watt. Questo è un 5. E poi saranno 5 e mezzo. Questo è più potente di quello là. Ah, è di poca roba però. Ecco qua. Era al buio. Come ti mai? No, non era acceso la cosa, la colonnina, e dunque era muto. Si è acceso tutto là. È acceso. Ma il bip ancora c'è? Sì, c'è ancora il bip. Ma cavolo, è che si toglie, blu, sole, si vede un po'. Guarda adesso. C'è sempre. E allora... non è questo ANR, e si vede un po', guarda adesso. Sempre. E quale stai usando, Bacchi? Il nuovo, l'ho fatto con Carrana. Ma Bippi non ne ha però quello lì. Te l'ho messo io. Qualcosa gli ha attaccato. No, quando fa freddo faccio... io Bacchi. No, dimmelo tu. No, me lo dì notte, no, vi credo davvero. Oh, lei, cosa abbiamo fatto la mattina? Abbiamo messo il bip. Io, dai, faccio sentire, Bacchi. Senti, quello col bip a me mi piace. Adesso li tolgo il bip, aspetta. Ma sono della sai voce, non devo dire ciò, mi credo davvero, ma chi? Adesso gli ho tolto il bip. Lei che stai pescando, spegni l'altro. Ti ho detto che ho tolto il bip adesso. Insomma, questo c'ha un tacchetto in meno di segnale. Questo è più mandrone. Ma quell'altro invece quello con Bippi è chiaro che mi sembra che quello ci abbia 5 watt, mentre qua se c'ha 4 watt e va bene. No, questo è a 4 e mezzo. Me ne sto segnando a 4 e mezzo. Hanno 4 watt questi qua, Così è tono, il tuono è così. Sì, è così, sì. È facile, sì che vedo un po', ma va bene, dai. Va benissimo, ma che dai, almeno ce l'hai nuovo e sei tranquillo, dai. Che l'altro funziona bene, da quando l'ho fatto con la saldatura non ha sgarrato un secondo. Vabbè, infatti stava uscendo bene. Ma che questo non si scherza, dai. Vado bene, almeno c'è il cambio, un po' che c'è di un po' che c'è di l'altro, ma va bene. Non va bene meglio, così ho no, 21, è strano. Sono le piste della montagna che c'era. Cazzo, andiamo. E domani ne porto un paio in campagna. Mi porto un Intec in campagna e un multimove, quelli due vanno in campagna e li metto sul tavolo. Chi può funzionare funziona, che no ci sto in casa. Ah, la tenda ce l'hai in campagna, ma chi se l'ho tolta? L'avevo regalata a Marino l'antenna che avevo in campagna. Rimettili qualcuna, gatto, almeno quando ti riposi, che sei seduto, te l'accendi e ti sentiamo. Sì, c'è un bipolo fatto pronto, infatti è pronto a portarlo giù. C'è un bipolo, c'è anche una verticale pronta. Infatti ho fatto vedere la torre stamattina con la verticale, dobbiamo portare giù. Ma se non la porti giù domani, che poi la smonto. Ma il bipolo metto a questa zona, a questa parte, punta da questa parte, sennò ti sentiamo troppo basso. No, lo faccio in verticale. Lo faccio in verticale, a L. Ah, va bene. La positivo lo puoi mettere in verticale, che è quell'altro anche orizzontale, dove non è un problema. No, lo metto dove è il lampione. L'attacco al lampione è un tipo di plastica e senti con il bipolo. Va bene, Batti, va bene. Fai così, almeno qualche chiacchierata a campagna ce lo facciamo, dai. Cosa mi fare? Tanto tu sei tutta la riga, così che quando faceva a sedere apparecchio, almeno c'era Mendeggi. Sì, appena sbattuta la serra, pure. Bisogna vedere se c'è qualcosa da fare in serra, piovendo si sta bene. Vabbè, questo periodo è quasi niente da fare in serra. Vedo un po', ciao. Infatti, bisogna fare usci, bisogna fare ogni addanto. Bisogna riposarsi, no. Bisogna riposarci, sì. Bisogna attaccare la staffa. Dove hai tutto, così non mi rompe. Infatti, te l'ho detto, attacchi la staffa lì, due viti, e te lo appendi lì, te lo appendi, almeno rimane riservato. No, non rimane in mezzo ai piedi, perché mi sta occupando il posto dell'altro, e non posso maneggiare, perché l'altro... Il capo, non altro va su, devo portare al piano di su perché il capo è più su. Quello della cosa, del discone. Il capo del discone è più su. Lo metti dove ti ho detto io, lo metti lì e non ti dà fastidio per niente. Ti appendi il microfono. C'è il gancio del microfono, ce ne sono due, tre. Capito, se ce n'è. Infatti, fai così, fammi. Ma così non ti dà il fastidio. Spero Gianmarino. Infatti. Ma tu a tuo, per amplificato l'avevi messo tu? L'ho provato, però mi ha detto un bel che usciva più basso, usciva. Ah, evidentemente. E cosa l'hai messo? L'MBP5? Ho provato e capo mi ha detto di dirci a basso. Ah, come quello di ieri che avevo io, so. Non lo so. Ma vedete, dice che usciva a basso, usciva. Allora ne aggiungavado. Lo sto usando qua sul presidente. Ma va bene col microfono normale. Certo, se si trova un microfono preamplificato adattato che vada bene, la radio rimane più forte. Però io ho lasciato così e non li metto preamplificato. Però certo, ci sarà qualche microfono che si vada bene, no? Non lo so. Non lo so come... So che togli quello e metti lo spinotto e funziona, bene funziona. Quindi, raggio di Valle Nunda. Ma chi? Voglio andare a vedere. Non fate nulla, sono, se no... parlano Romandia. Ma molto vicino ce l'hai a bocca il microfono. Come sempre, come sempre. 10 centimetri. Sì, 9,30, sì, E con l'altro motore? Con l'altro rimane più forte magari, perché c'è per amplificato magari. Mentre questo è il microfono normale, cosa vuoi pretendere? Anche troppo. Anche quell'altro là è normale, non è un amplificato, non funziona, si manca la capsula. Ce l'ho così, va bene così, va bene così. Infatti stai funzionando bene, tutto un altro, lascia così. E allora, se tu arrivi a Susu, e poi c'è che arrivi a Sassari. Gli arrivi in mezzo delle rughe, non ti preoccupare. No, così. A me mi intendi a Susu, a Porto d'Ora, Roma Pesce, la Riera, Roma Pesce, quindi cosa vuoi di più? Vabbè, quattro facce, ma così, ma, così che cosa vuoi pretendere di più? Vanno bene. Ma niente, sono pure in Corsica, ma niente giù a Coso, a Roma, ma niente giù in Calabria, è tutto, mi vuoi intendere in ogni sassa. Vabbè, ma in chiesa, Pratamone a Ribunti. E quindi, a voglia di venire. E voi immaginate. Però ma chi? Piano, non si arriva a quelle parti. Adesso comincia a calare la popolazione, non si va più a nessuna parte. Tra poco non ci sentiamo l'uno l'altro, più di calzotto. Ma è Marino, non si è sentito? No, non l'abbiamo sentito per niente. Naturalmente, buonasera a tutti. Allora, ma chi? Perché è accudito, sai che copper che ne c'è la bene, la pentola. Ciao a Sergio Maria, ciao anche Bacchisio, modulazione ultima, una bella pulita e come segnale leggermente più basso dall'alfa, avanti Bacchisio. Sì, è più basso, buonasera Marino, ben ascoltato. Più basso, questo sono 4 watt e qualche cosetta, quindi sono 5 watt. 9,10 con l'altro 9,15, però la modulazione mi piace più questa che l'altra. L'altra si sentiva, non so quasi sia il mio apparecchio, dentro un barattolo, capito? È a forza, ma dentro un barattolo. Questa è il lupo più limpida. Avanti. Ok, l'altro adesso proviamo l'altro tra un po'. Come va la caramella? Già va bene, è un po' dolce ma già va bene. Avanti Tore! Ehi, certo! Batti, parli della pentola che c'è fuori il coperchio. Occhio, vi sto controllando tutti io, anche se non ci sono, vi sto ascoltando, vi sto controllando, occhio. Avanti Batti. Giovanni, scusa. È così. Cerchi e subito si affaccia perché stavo ascoltando, invece dicevamo male di lui. Avanti Maria, mi è cambiato adesso. Aspetta un giorno che sono stesso chiave, la modulazione è cambiata. Dalla il passaggio, ma chi scusa? Vedi un po' cosa cambia di nuovo, se è peggiorata o non migliorata. Il segnale è aumentato, la modulazione è leggermente come se dopo canse, io forse sia il mio apparecchio, capito? Lo sento, ma questo è un cupo, lo sento io, però come segnale è aumentato. Vabbè, cupo, questo è il vecchio, andiamo sul nuovo. Ripeto, provati che sia il mio apparecchio, ma questo qua, non voglio dire altro. Avanti Giovanni. Buonasera Maria, mi sentita. Vabbè, quell'altro c'ha 5 watt, così che questo ne ha 4, però l'importante è che la radio sia pulita, anche se sono 4 watt di meno di quell'altro, però questa è più pulita la radio. Esatto, è nuovo, io ripeto, è nuovo, lo sento meglio come modulazione, più bella, limpida e pulita. Questo il vecchio è più leggermente, più alto come segnale, come modulazione la sento un po' cupa, leggermente, ripeto, provarsi che sia il mio apparecchio, non tutto qui. Avanti Giovanni. Ma è così, infatti. È così, vai tu. Questo perché c'ha il microfono originale e tutto quanto. E d'altro non va un microfono originale Giulio. Già va bene, Marchisio, va benissimo là, di nuovo. Ottima scelta. Allora, si va chi? Lo devo recuperare il microfono originale di quella radio lì. Ok, con quell'altro microfono funzionava perfettamente bene. Quindi questo microfono, l'hai visto tu, sai, è un barrasone che pesa 80 kg. Sì, infatti, fatelo durare, usuglio originale. Certo che è meglio, esci con l'originale, è suo, è meglio. Cioè dove ce l'ho buttato adesso? Chissà dove ce l'ho buttato. Avrà dato un altro. Di sicuro. Li fa girare. Una volta a me, una volta a te, una volta a quell'altro, capito? Ah, così fa. Beh, se l'ha cambiato vuol dire che non andava più bene quello, l'originale. Andava bene perché c'era la capsula nuova. E allora perché te l'ha cambiato? Ho messo una più grande le capsule, questo qua, questo microfono, un microfono della Lafayette. Quello che c'ha tutti i tappi avanti, che non serve a nulla. Il microfono suo originale funziona benissimo, funziona e non la senti cuppa come te il microfono. Il microfono ti intendi la voce un po' gare di cuppa. Quello che c'è adesso? No, non del nuovo, di quello che c'è, che stavi modulando prima. Con quello sento la voce un po' cuppa. Perché la capsula è sua, non è di quell'impedenza lì. Infatti non è l'impedenza sua, la sua deve essere il 500 ohm, deve essere. Non lo so, vi dico la verità, non ci ho mai parlato a vedere quanti ohm era la capsula, non ci ho mai guardato. Ma già lo so io, ogni capsula delle cose, gli apparati sono da 500 ohm. Tu ti ho fatto vedere che il microfono stava lattando. Quell'apparato non ci va bene. Negli altri apparati che ho funziona benissimo. Nell'altro Intec che ho a casa, giù, lì funzionava benissimo. Adesso in questi non ci sono affari come lì. C'era la gira la testa giù. Infatti. Ed è così. Che non va bene così da coso. L'unica cosa è lo suo originale, ecco cosa è, perché io ho controllato questo del presidente, è di 500 ohm. E allora torniamo? Giovanni Focchetti, stai parlando di quel fotografo, Focchiera, Saturno per caso? Ma chi stai dicendo? A Gian Maria? A Gian Maria, sì. Non ho capito, no, Maria. Focchetti, stai ascoltando, stai facendo cosa? Stai parlando di uno scambio che è fatto un fotografo. Ma chi era per caso? Saturno? Scusa, volume basso perché c'era la televisione. Ripeto. Focchetti era un po' nascosto, che non sono entrato e stava facendo cosa. E stavi parlando che hai fatto uno scambio fra una cinepresa e un apparecchio. Il fotografo chi era? Saturno per caso? No. Ah, pensavo era Saturno, quello era. C'era lo studio da Cavallucci a fianco all'Osa, tutto qua. Bene, avanti, Bacchisio. Ah, no, hai ragione, Saturno era, Saturno. Ah, è quello un altro agorino che alla fine aveva comprato anche un terreno, una campagna bancaria, e poi è morto, poverino. Saturno, sì, lo conoscevo abbastanza bene perché andavamo di mattina per i caffè, tutto qua. Avanti, Bacchisio. Io, non lo bene vedo. Saturno, nome nuovo questo nome. Oh, già hai conosciuto Bacchi, era un vecchio, bravo fotografo, c'era a fianco all'Osa, c'era un portone e salivi su, e c'era lo studio e poi c'era una stanzetta dove c'era la stazione radio, tutto qua, così è Gian Maria. È facile, aveva sempre la direttiva a pezzi buttata lì con la camera, non so se l'hai vista. E io avevo dato un proiettore sonoro, Super 8, e lui mi aveva dato i Sommer che mi aveva dato, però era ritardato di ricezione, erano che infatti l'ho portato per persone e non hanno cavato piede, capito? e poi quelle, quel proiettore l'ha venduto a Cosio, a quello che a Civicchia, uno che è centro casa, no, a uno che Cilente, come si chiamava, quello, uno che abitava vicino stesso, che comprava e vendeva casa, eccetera. Capito? E io ho lavorato questa macchina, lui mi ha lavorato le cose, il baracchino, poi non l'ha voluto più sapere lui di baracchini, capito? Perché lui era uno bello, una stazione, era anche forte, aveva una bella antenna sul tetto, era fortissimo, vabbè, era alto, dunque non c'era problema, perché lui era molto forte. Ma si va chi? Sì, io. Tutti sparati stasera arrivano da 9.30, 9. Su questo arrivi Santiago 9. Invece Tone 9.30, Giammaria 9.30. Il più basso sono io, perché io sono più piccolo, Bacchì. Io sono più piccolo, tutto qua. Avanti, sto. Ti devi allungare un pochino, Mari, ti devi allungare un pochino, perché così non va bene. È importante che ti intendia. Stavo pensando di metterci un paio di giornali sopra la sedia, staremmi sopra la sedia. Forse che mi ascolti più forte. Avanti, Giovanni. Ok. Perché poi se tu sei più lontano, fammi a Tore, siamo vicini, capito? Tore arriva più con tre segnali in più di Bacchisio, però arriva a 9.30 qua Bacchisio, e Tore arriva a 9.36, 9.37. Ehi, guarda, no, sei troppo forte, non c'è nulla da fare, c'è una potenza addosso, è una cosa, boh. Non lo so, non ti conosco più, Etto. Perché beve l'accento. Poi puzza. Mi sa che ho bocciato 39 frigoriferi, anzi ora, basta freco freco. Andiamo a muovere. A te che d'altro? Mi, ma chi? Mi che entra da Antonello, mi? Buonasera Antonello, avanti. Buonasera a tutti. Ti volevo chiedere, Bacchi, ma quella cosa lì quando è, domani o domenica? Domenica alle 4, 4 e un quarto in chiesa. Ascolta, ma qual è chiesa? Quella della Tedolce? Sì, a quella della Tedolce. Quella della Tedolce. Tu arrivare in chiesa, te ne scendi, diciamo sì. Dunque aspetta, prima di arrivare da di fronte al CER. Di fronte al CER c'è la fermata del tram. Passi sotto il portico e sei in chiesa. Ah, di fronte al CERT dove c'è l'ufficio di collocamento in pratica? Ho capito, dimmi. Ho di fronte al CERT, ma quello dove è a fianco l'ufficio di collocamento oppure cosa? Così è. Più avanti di pratica di Gian Maria, là. No, più in giù di Gian Maria, più in giù. Da Gian Maria conti un'altra fermata. Alla prossima, dopo Gian Maria, te ne puoi scendere. Oppure ancora l'altro di fronte al campo sportivo. Antonello, vicino all'ufficio del collocamento, sta dicendo adesso. Dimmi passi, sei già arrivato, Io passo da luce da quello, dove c'è l'ufficio di collocamento, là. La seconda fermata prima di arrivare a casa di Luca, in pratica. Esatto. Vabbè, allora le 4 già la passo lì, così non c'è problema. Alle 4 ci vediamo lì. Eia, tu ti chiama su PMR e sei un signore, se non vuoi consumare il telefonino. No, un PMR e un 2, non ho problemi, ne ho veramente 4. Ti porto quello a 16 canali dove ci sono tutti i canali PMR e l'IPT, già va bene. C'ho anche l'attacco delle come si chiama, dell'autoparlante piccolino con la cuffietta. E due portane, Antone, due portane. Vabbè, li porto tutti e due allora, io to porto. Poi ti volevo dire, Bacchi, guarda che io c'ho un microfono normale di Lafayette, ti porto anche quello, ti porto, così, guarda che è attacco FM500S però, non è il 3009. Questo qua è il 34S. Allora va bene. Non ho pagato che staccare con la rete e altro, capito? E di un apparecchio che mi ha regalato mio cognato. E c'era il microfono, anche perché cazzo non c'è né la GBC e tanto meno fusaro, quindi bisognerà fare, stato arrangiati. O se vogliamo una capsula telefonica pure bisogna, capito, fare così, perché il negozio non viene, né uno non c'era né uno né l'altro. L'unica cosa è far arrivare il microfono da fuori, ma non vale manco la pena, ti costa più in spedizione che altro, che il microfono stesso. Va bene, ti porto allora quel microfono normale e i due portati neri, prenda, già va bene. No, poi te ne do uno io, che stavo cercando di collegarlo sull'Intec, ma non ci va bene, non ci risuona. Ed è un Midland che avevo comprato da Tonino. E su questo apparato no, non ci va bene, sugli altri apparati che ho ci va bene, su questo nulla da fare, non mi dà consenso. Te l'ho detto un'altra volta, quel tipo di apparecchio è un apparecchio un po' strano, l'ho avuto io e non ci sono riuscito manco io. E ho messo tanti di quei microfoni, ma l'ascolta che o fischiava o non usciva di radio, oppure la portata era una cosa sbagliata, perché c'era mi sembra sia 7 fili se non mi ricordo male. E così fa, o fischia o non esce nulla, è stata una sera che mi si sono già le scatole, poi l'ho buttato da una parte, sull'internet, su questo apparato non ci va bene. E i dati da me, guarda, a me me l'avevano dato, regalato per me quel baracchino, io ho preso, ho regalato, se non mi ricordo avevo regalato qualcosa a Gianni Caprivo di Muros, e tra l'altro di due che avevano già 10 di capo il tuo baracchino, gli ho detto. E tra porti via questo, poi gli avevo dato i 23 canali stazione base, anche, gli avevo regalato anche quello, e tra porti ti dico qui quello che è meglio, i 23 canali non li posso manco vedere. Per pesca 40 canali sono molto meglio e non ti devi azzuffare. Avanti Marino. Io riprendo e vi saluto che mi sta chiamando mio nipote. Ok, Bacchiglio, ciao Ottore, ciao Antonello, ciao Gio Maria, io quello ti permette fino a domani, Bacchiglio se in caso ti faccio lo squillo domani mattina, dai. Bene, Bacchiglio rimani quello ti permette, dai. Ciao Marino, buona serata, sono in casa. A domani, benissimo, avanti Gian Marino. Ciao, ci sentiamo con Quelletti, buon tutto, Marino, alle prossime, buon Quelletti. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime, Bacchi, Marino. Stavi mandando, tu, non sei un affare. Ciao, porta a comunicare, ciao. Sì, stavo ascoltando il televisore. Avanti Gian Marino. Chiuso, dai. Ciao Mari, ci sentiamo, ciao Bacchiso, ciao Torre, dai, sto riprendo qui, io chiudo. Ci sentiamo domani se Dio vuole, ok? Ciao, vai tu. Ok, ciao Gian Mari, ci sentiamo. Ti prendi Bacchiso. Ciao Gian Maria, buona serata, sono in casa, a domani se tutto coincide. Buona serata ancora. Avanti, a lei. Ciao Gian Mari, ci sentiamo, stammi bene, comunque con tutto. E alle prossime. Allora, tutore. Sì, cosa volevi? Io nuovo. Ma sì, bisogna che ti dica che proprio quel microfono che c'ha là, il coso dentro, come ti chiama, che alimenta con l'alimentatore piccolino dentro, a provare a vedere come esce. E ce l'ho io, quello lì te l'ho fatto vedere stamattina, l'ho tolto, l'ho anticipato dentro, c'è una cosa, un trasformatore piccolino, cioè, che alimentava la capsula. Prova a vedere con uno di quelli a vedere, con quello lì a vedere se esce più bene. L'ho distrutto, l'ho tolto, ce l'ho il trasformatore da una parte, questa è una parte. Però se tu mi dici come era collegato, boh, non me ne dico più nulla. Guarda che la verità nulla, il trasformatore infatti era un trasformatore di impedenza. C'erano il focale 50-24, c'erano quel tipo di microfono così. Poi un SBA che avevo, era un microfono dell'SBA. Sì, quelli vecchi in pratica, l'SBA, il Tokai 5024, l'unico che ci va forte era il Tokai 5024, era sembra variato ficcato, variato da con Papa, figura, che allora in pratica l'LC non si toccava mai perché lei che lo conosceva l'LC. L'avessi saputo magari che da prima che si poteva modificare l'LC si è riuscito ancora il doppio di come sta uscendo adesso il 5024, capito? Il microfono è un SA 28, quello dell'SBA. Già è così, sì. Vabbè, là io ne approfitto, vi saluto, ci sentiamo domani, ci sentiamo, ok. Ciao, a domani, Marchiso, ciao Antonello. Sì, salutissimo in casa, a domani, se tutto coincide, chiama. E anch'io lascio Antonello perché sono le 8, la medicina mi aspettano. Antonello, ci sentiamo domani, buona serata, grazie della piccola chiacchierata. E ci sentiamo e ci vediamo domenica. Ciao, buonanotte. Sì, ciao Bacchi, ci sentiamo, ciao anche a te, buon a tutti e due, buon tutto, alle prossime.